Flavio di Cobas Scuola da Piazza Santissima Annunziata. Ciao Flavio. Ciao, ciao. C'è stata appena ora la manifestazione Priorità alla Scuola, e quindi dici un po' com'è andata. Senti, la manifestazione è andata molto bene, la partecipazione è stata molto ampia, di famiglie, di studenti di varie fasce di età, e ancora ci sono ancora persone in piazza, malgrado, diciamo, gli interventi siano finiti da un pezzo. È stata la cosa bella e importante è che queste manifestazioni simili si sono svolte un po' in varie parti d'Italia, Roma, Bologna, a Padova qualche giorno fa, proprio dei Cobas, anche a Venezia, ora poi a Napoli, insomma a Trapani, Faenza. Torino, sto citando alcune, Pisa, Pontedera, Scutarezzo, insomma, in molte città d'Italia. Bene, i temi sono molti, però fondamentalmente si rifanno tutti alla questione della scuola, la didattica a distanza, cosa non ha funzionato in queste settimane e le pecche che hanno messo in evidenza tutta questa situazione. È nata una piattaforma molto interessante, se ci vuoi un po' raccontare di cosa si tratta, questa priorità alla scuola e la petizione che ne è venuta fuori. Allora, già sì, tempo fa uscì questa petizione che partiva appunto da Firenze, da un gruppo di insegnanti, genitori, studenti che chiedevano che la didattica a distanza non fosse appunto fosse solo limitata all'emergenza e che si ritornasse a settembre nella didattica vera, quella presenza, in presenza. Hanno chiesto, era una lettera aperta alla ministra, hanno chiesto degli incontri con la ministra che tra l'altro non ha mai concesso, sebbene questa petizione avesse raccolto in poco tempo 85.000 firme. Dopodiché gli organizzatori hanno deciso che era ora di passare a ulteriori forme di pressione e che la forma di pressione è appunto questa della mobilitazione di piazza. Quindi sempre il comitato promotore ha lanciato questa iniziativa per il 23. Noi Comas abbiamo preso localmente contatti da dove si stavano organizzando queste iniziative e le abbiamo pubblicizzate, e abbiamo partecipato attivamente alla costruzione di questi momenti di piazza. E quindi la cosa è quella di che a settembre ci sia un piano, insomma, appunto di ritorno nella scuola, cosa che tuttora manca, che vengono assunti precari già da settembre, non attraverso dei concorsi che vedrebbero dei tempi molto più lunghi e che si implementi maggiori risorse e maggiore personale. Fatto sta che invece i segnali che vengono sono con del segno completamente opposto perché ci sono dei tagli agli organici, il Ministero sta dando, sta dando disposizioni agli uffici territoriali di tagliare delle classi e quindi solo in Toscana si vanno a perdere 130 posti in organico. Questo vuol dire che ci saranno diverse classi che spariranno. Invece quindi la cosa è esattamente il contrario di quello che ci si aspetterebbe, no? Implementare l'organico, implementare i finanziamenti, fare sì che ci sia la distanza, distanziamento personale, io distanziamento sociale è una parola che non mi piace perché evoca qualcosa che in realtà Aberrante, poi quindi. che la didattica a distanza poi ha implementato perché chi aveva una famiglia alle spalle, chi veniva da, diciamo, ceti culturalmente e socialmente agiati è potuto andare avanti, ma chi invece proveniva da difficoltà economiche, sociali e culturali si è trovato ancora più indietro. Questo l'abbiamo constatato tutti gli insegnanti, abbiamo constatato questa il divide, la divisione sociale aumenta. Quindi, aspetta, forse ho fatto un po' di confusione, però quello che voglio dire è che bisogna, diciamo, i segnali che ci arrivano sono completamente opposti. Quindi a questo punto noi siamo d'accordo su continuare questa mobilitazione che il 3 settembre poi vedrà da parte dei genitori lo sciopero della disconnessione, la giornata della disconnessione, cioè che gli alunni si disconnettano per un giorno per dare il segnale appunto che non si può continuare con questa modalità. Senti, è una delle prime manifestazioni che vengono fatte in piazza, non la prima, ma tra le prime sicuramente. Vi sono stati problemi con le forze dell'ordine, la gestione delle distanze, di tutti i parametri di sicurezza è stata rispettata? Sì, è stata rispettata, la polizia che pure era presente in forze è rimasta appunto al lato della piazza e non ha assolutamente, non ha fatto nessun intervento nei confronti della piazza. Ora la piazza piano piano si è quasi svuotata, sono rimasti i bambini a giocare e i genitori. No, non ci sono stati non c'è stato nessun problema, di ordine pubblico, cioè tutto è avvenuto con molta tranquillità. Bene, allora ancora un buon percorso, vi auguriamo, e noi siamo qua, ci sentiremo sicuramente presto. Sì, noi Cobas anche della scuola saremo anche il 30 all'altra manifestazione in presenza e poi dopo appunto stiamo lanciando questa giornata della disconnessione, quindi vediamo se questa volta il ministro dirà qualcosa, no? Dopo questa iniziativa nazionale. Ti saluto, ti ringrazio dell'opportunità. Bene, grazie Flavio ancora, a prestissimo. Ciao, a presto.